Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di uno scrittore israeliano, Asaf Gavron, che ha pubblicato il romanzo Idromania. In Italia è stato pubblicato da Giuntina, che è una casa editrice che pubblica appunto la letteratura ebraica. È un romanzo particolare, un romanzo un po' fantascientifico, un po' thriller, lo possiamo definire un eco-thriller quasi, perché si immagina un mondo dove i problemi ecologici sono piuttosto consistenti. Innanzitutto è ambientato in Medio Oriente, si immagina Israele ridotta ad una piccola enclave e i palestinesi che di fatto hanno preso il potere nella regione. E poi, per quanto riguarda la parte eco-ecologica, è un mondo dove l'acqua scarseggia e il mercato dell'acqua è detenuto da alcune potentissime società. C'è poi la parte thriller, perché la protagonista femminile cerca disperatamente il marito. Il marito è scomparso, il marito era un ingegnere che aveva messo a punto un sistema per rendere l'acqua a disposizione di tutti, quindi sicuramente un personaggio pericoloso per queste società. E allora cerchiamo di scoprire qualcosa in più di questo romanzo grazie alla traduzione di Shulim Vogelman, che è appunto anche l'editore della Giuntina. Asaf, perché hai deciso di scrivere questo romanzo, questa sorta di eco-thriller? Kodem kol razziti לדמיין, זה התחיל מזה שדמיינתי את עצמי בגיל 99. Prima di tutto è iniziato dal fatto che mi sono voluto immaginare all'età di 99 anni. ומשם התחלתי לחשוב על העולם שיהיה בזמן הזה, באיזה שנה זה יהיה, איך יראה העולם, איך תהיה הפוליטיקה, איך תהיה הטכנולוגיה. E da lì ho iniziato a immaginare come sarebbe sembrato il mondo in quell'anno, come sarebbe sembrato dal punto di vista politico, economico. והרעיון לכתוב את זה ב... בכיוון של אקו-תרילר, הוא פשוט נוצר תוך כדי עבודה. זאת אומרת, האקו בא מהעולם הזה, מהמים, והסגנון של הספר כבר התפתח לבד. E l'idea di renderlo un eco-thriller è nata nel mezzo della scrittura, e la parte ecologica viene così da questo mondo che volevo immaginare, in particolare da tutto quello che riguarda l'acqua, e così è nato. Il mondo che immagini nel romanzo non è sicuramente bello, l'abbiamo già detto, non c'è l'acqua, mancano anche il caffè e la cioccolata, perché per produrla ci vuole appunto troppo acqua, e poi sono alimenti che fanno venire sete, manca l'acqua, insomma, e il giro è sempre quello. Perché questo tipo di mondo? אז אני חשבתי על אותו עולם שיכול להיות עוד 60 שנה. Io ho pensato al mondo che sarebbe potuto essere tra 60 anni. וכל מה שקורה בעולם הזה שדמיינתי הוא בעצם המשך של דברים, של תהליכים שכבר קורים היום. E quello che succederà in quel mondo in realtà è una continuazione di processi che già esistono oggi. זה גם מבחינה אקולוגית, global warming, וגם מבחינה טכנולוגית, איך שהמחשבים מתקדמים, וגם מבחינה פוליטית, איך הדברים מתפתחים בישראל. Sia dal punto di vista ecologico, ad esempio con il surriscaldamento globale, oppure dal punto di vista della tecnologia, con il modo in cui funzionano i computer o la rete, oppure dal punto di vista politico, con le grandi alleanze che si creano. וזה הסנריו שהגעתי אליו, אם הוא טוב או לא, אני חושב שזה משהו שאפשר להתווכח עליו. E il romanzo è lo scenario che ho costruito, al quale sono arrivato, e poi si può discutere se è un buon scenario o un cattivo scenario. In questo mondo immaginario la pioggia, appunto, abbiamo visto, è una rarità. Alcune compagnie controllano il mercato dell'acqua. È un incubo, naturalmente. Pensi che sia un incubo possibile? Cioè che questa situazione possa realmente verificarsi? Ani lo yodea im ze be'emet ha'tachazit sheli lema she'yikre. Non sono sicuro se è veramente la prospettiva di quello che succederà. Aval ze ken mashu she'matchil likrot. Ma è qualcosa che sta succedendo. יש חברות שכבר יש להם בעלות על נחלים ואגמים באלפים למשל. Ci sono società che posseggono, hanno la proprietà di fiumi oppure di laghi, per esempio sulle Alpi. ויש חברות שמשתלטות על אספקת מים בערים בעולם השלישי, בדרום אמריקה למשל, שבעצם הן אחראיות על כל אספקת המים. Oppure ci sono società che controllano la fornitura d'acqua nel terzo mondo, ad esempio, oppure nel Sud America. Sono loro che decidono come l'acqua arriva in questi posti. Az ze mashu she shu efshari. E allora è qualcosa che è sicuramente possibile che avvenga. L'acqua più preziosa del petrolio? Ken? Ma אני חושב שבסופו של דבר זה משהו שאנחנו לא יכולים לחיות בלעדיו. דלק זה משהו שיש לו תחליפים, אבל מים זה הבסיס של הבסיס, ומהבחינה הזאת זה הופך למצרך הכי נדיר והכי מבוקש. Sì, credo che sia proprio così, perché la benzina può avere dei sostituti, ma l'acqua no. L'acqua è quella sorgente fondamentale e basilare di cui abbiamo bisogno e che non può essere sostituita. La protagonista femminile è Maya. Ci puoi raccontare qualcosa di lei? Maya è isha che בתחילת הספר חיה לבד כי בעלה נעלם. Maya è una donna che all'inizio del romanzo vive sola perché il marito è scomparso. והיא במקביל יוצאת לשני מסעות, אפשר להגיד. אחד זה חיפוש אחרי בעלה שנעלם, והשני זה התכוננות לגשם שצפוי, ושביחד עם להתכונן בעצמה היא מובילה כפר שלם להתכונן לאגור את המים שירדו בגשם הזה. E si può dire che inizia due percorsi paralleli, un percorso per cercare di capire cosa è successo al proprio marito, ma l'altro percorso è il percorso che la porterà alla pioggia, che è in attesa della pioggia che deve scendere, e al tempo stesso di aiutare una comunità agricola, un villaggio, a cercare il modo di procurarsi l'acqua da soli. ותוך כדי המסעות האלה היא בעצם מגלה דברים גם על עצמה, על המנהיגות שלה, על היחסים שלה ועל הדברים שחשובים לה באמת. E in questi due percorsi paralleli scopre sempre di più cose che riguardano lei stessa, sul proprio carattere, sulla propria leadership, e scopre anche che cosa nella sua vita sono, quali sono nella sua vita le cose importanti. Nel mondo che immagini in questo romanzo Idromania, le nuove superpotenze sono Cina, Giappone e addirittura l'Ucraina. Secondo te la Cina potrà realmente dominare il mondo in futuro? שוב, זה תהליכים שקורים. אני לא המצאתי כאן שום דבר. Non sono cose che mi sono inventato, sono processi che avvengono. העלייה של סין לעומת הירידה של ארצות הברית כסופר פאוור, ככוח המוביל בעולם, זה משהו שמדברים עליו כבר הרבה זמן. Ad esempio, l'ascesa della Cina rispetto alla caduta degli Stati Uniti è una cosa di cui si parla già da molto tempo. וכמו עם כמה נושאים בספר, אני פשוט לקחתי את זה הלאה, ודמיינתי איך זה ייראה ואיך זה ישפיע במיוחד על ישראל. E come per altri temi che affronto nel libro, io ho preso queste idee, queste teorie, le ho portate avanti nel tempo e ho cercato di capire come queste influenzano il mondo e influenzano in particolare Israele, che è dove avviene il romanzo. Nel romanzo descrivi Israele come un enclave. I palestinesi hanno preso il potere nella regione. Hai avuto problemi, critiche quando il libro è stato pubblicato in Israele? Yes, many people didn't like that. Beh sì, molte persone non erano contente. Sorry, I'll continue in Hebrew. אז כן, הרבה אנשים לא אהבו את הסצנריו הזה. Allora, scusate, in ebraico, sì, molte persone non hanno amato questo scenario. זה באמת המשך של השאלה הקודמת, זאת אומרת, הסיבה שישראל נחלשה היא בגלל שסין התחזקה וארצות הברית נחלשה, וההשפעה שלה באזור נחלשה. E è un po' una continuazione della domanda precedente, perché quello che è successo è che con l'ascesa della Cina e l'indebolimento degli Stati Uniti anche Israele si è indebolita. והרבה קוראים ישראלים הם אהבו את הספר, אהבו את המתח, הם אהבו את הדמויות, את מאיה, אבל היה להם קשה לקרוא את הסצנריו הזה. E per molti lettori israeliani che hanno letto il libro e lo hanno amato molto, le personaggi, la trama, anche Maya in particolare, però leggere, come dire, questa conclusione non è stato facile. In Israele la gente è sensibile ai temi ecologici? זה נושא שמדובר עליו הרבה שנים. È un argomento di cui si parla da molti anni. כשהייתי ילד כל הזמן דיברו על הכינרת, שזה מקור המים הטריים החשוב והגדול בישראל. Quando ero un bambino si parlava sempre del lago di Tiberiade, che è l'unica sorgente di acqua fresca in Israele. ותמיד דיברו על הקו האדום, שהמפלס של הכנרת יורד ויורד ויורד, ויש סכנה גדולה שהוא יגיע לקו האדום. E sempre si parlava di una linea rossa, che era la linea del, oltre la quale l'acqua non doveva scendere, e c'era sempre questo pericolo. ואז פתאום, לפני איזה חמש, ארבע, חמש שנים, פתאום התחילו לדבר על הקו השחור, שהוא יותר נמוך מהקו האדום. All'improvviso, 4-5 anni fa, hanno iniziato a parlare della linea nera, che era più bassa della linea rossa. והיה קמפיין ענקי בטלוויזיה ובבילבורד ובכל מקום שממש מפחיד מהמצב ואומר לאנשים לחסוך במים ולחסוך במקלחות ולחסוך בהשקיה ובבריכות ודברים כאלה. E dovunque, in televisione, nei mezzi di comunicazione, si parlava in modo veramente pauroso di come la popolazione dovesse risparmiare acqua in tutti i modi, lavando i piatti, facendo la doccia, ogni volta che apriva un rubinetto. זה בהחלט נושא שמודעים אליו בישראל. E quindi è un argomento di cui si è molto cosciente in Israele. Grazie ad Assaf Gavron, autore del romanzo Idromania, pubblicato in Italia da Giuntina, e grazie alla traduzione di Shulim Vogelman. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Potete anche scrivermi i vostri pareri sui romanzi di cui parliamo e su altri romanzi a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.